anche sapere se avete scelto per caso un tipo di pubblicità o comunque un modo per farvi conoscere per No, non l'abbiamo scelta. mai fatta. Un po' per una questione di dici, se c'è la pubblicità e magari è successo la pubblicità, oddio come facciamo a tirare avanti? Finora è il passaparola. Ha funzionato il passaparola, ma ancora ieri al Buffet all'università mi hanno detto, ma perché non portate i cartellini? Ricordatevi di portare sempre il biglietto da visita e le cose, dico l'ho dimenticato ancora una volta.